Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. Ci si sveglia, si comincia col dire sono e ora. La consapevolezza di essere ancora qui lentamente si materializza. Il risveglio non mi è mai piaciuto. Non sono mai saltato dal letto per sorridere alla giornata. Gli stolti sorridono al giorno, che solo gli stolti sfuggono alla semplice verità, che ora non è semplicemente ora. È un freddo promemoria, un giorno più di ieri, un anno più dell'anno scorso, e che prima o poi lei arriverà. Ci metto tempo la mattina a diventare George. Tempo per adeguarmi a quello che ci si aspetta da George e a come deve comportarsi. Una volta vestito e data un'ultima lucidatura a colui che ora è il debolmente rigido ma perfetto George, so quale parte interpretare. La storia di Single Man, esordio cinematografico dello stilista Tom Ford, tratto dall'omonimo romanzo di Christopher Isherwood, racconta l'amore lungo una vita tra un professore universitario e il suo compagno, che quando muore lo lascia svuotato della sua stessa anima. Oggi a Destini Incrociati raccontiamo un legame che a questo assomiglia molto, profondo, vitale, necessario. I due protagonisti sono Yves Saint Laurent e Pierre Berger. Yves Saint Laurent, Pierre Berger. 23 febbraio 2009, Parigi. Nella straordinaria cornice del Grand Palais, tutto è pronto per l'asta del secolo. 733 pezzi tutti in vendita, la più grande raccolta di un unico possessore, lo stilista Yves Saint Laurent, che è morto da pochi mesi. Gli oggetti sono tutti eccellenze, perché l'acquisto, a partire dagli anni 70, è sempre stato guidato dall'idea che è meglio un muro vuoto che un quadro mediocre. Picasso, Mondrian, Matisse, De Chirico, ma anche Art Deco e argenteria italiana appartenuta a Luigi XIV. Le signore ingioiellate e i mariti pronti ad accontentarle siedono composti in attesa di fare le loro offerte, stimate per un totale che dovrebbe aggirarsi intorno ai 300 milioni di euro, da destinare per metà in ricerca medica e per l'altra metà alla Fondazione Berger Saint Laurent, che ha lo scopo di preservare il lavoro del maestro della moda. Scoppia anche il caso diplomatico, per via di due bronzi cinesi che raffigurano una testa di topo e una testa di coniglio stimati 10 milioni di euro ciascuno. Pechino chiede la restituzione, ma Parigi gliela nega. A prendere l'importante decisione di quest'asta epocale è stato proprio Pierre Berger, che tutte quelle opere le aveva scelte con Yves. Ha voluto tenersi soltanto, per il significato che hanno, due pezzi: un ritratto del compagno firmato Warhol e un'antica scultura africana, Senufo, il primo oggetto comprato insieme nel 1960. Senza Yves questa collezione non ha più ragione d'esistere. È parte del mio cuore, parte della mia vita. Lo so che i becchini dell'arte fagociteranno tutto questo, ma sapete, perdere qualcuno con cui hai vissuto con alti e bassi per 50 anni, perdere la persona a cui hai chiuso gli occhi, è un'altra cosa rispetto a vedere che se ne vanno delle opere d'arte. La collezione, nel corso degli anni, è diventata essa stessa un'opera d'arte. Yves Saint Laurent e Pierre Berger non hanno mai scelto un pezzo senza consultarsi, come non hanno mai mosso un piede nel corso della loro esistenza senza chiedere all'altro cosa ne pensasse. Se Yves è il genio dalla timidezza patologica, con gli occhiali dalla montatura importante appoggiati sul naso per colpa della miopia e la tendenza alla depressione nervosa, Berger è quello che fa funzionare tutto, quello che si arrabbia ogni tanto, ma solo quando qualcosa sfugge al suo controllo. Artista dal talento precoce il primo, punto di riferimento dal pragmatismo eclettico il secondo, il destino ha deciso di metterli sulla stessa strada, la strada a cui sarebbero stati legati per l'eternità. That's because I'm a good old-fashioned lover boy. Per la Francia, alla fine dell'Ottocento, avere il possesso della città di Oran, nord-ovest della colonia algerina, significa garantirsi un importante centro per i commerci con tutto il Mediterraneo. Per questo, l'amministrazione che fa capo a Parigi lavora in modo proficuo sul territorio. Strade asfaltate, illuminazione pubblica, aspetto moderno. Il risultato è che Oran diventa presto la città nordafricana dove vive la più alta percentuale di europei, divisa tra spagnoli, ebrei, italiani e naturalmente una maggioranza francese. È qui che lo scrittore Albert Camus vive a lungo con la sua seconda moglie, arrivando ad ambientare in questi luoghi il suo celebre capolavoro La Peste. Ed è sempre qui che, in un caldissimo primo agosto del 1936, nasce Yves Saint Laurent, la cui famiglia, agiata e originaria dell'Alsazia Lorena, si era rifugiata in Algeria in seguito alla guerra franco-prussiana. Devo dire che ho passato tutta la mia infanzia e la mia giovinezza in Algeria e quelle atmosfere mi sono rimaste in testa per sempre, tanto che poi le ho ricercate in Marocco. Quella gente, quei profumi, quei colori sono state importanti prima di tutto per la mia vita e poi per le mie collezioni. Quando la moda ce l'hai nel sangue, c'è poco da fare. Non sarai mai realizzato se non ti dedicherai a lei con tutto te stesso, senza mai tradirla, anche quando ti prosciugherà le forze, anche quando ti farà sentire non all'altezza, o perfino quando le cose andranno benissimo. E per dirla con le parole di Berger, arriverà il momento in cui la gloria è lo splendido lutto della felicità. Splendido, ma sempre lutto. È il 1954 e Yves ha appena 18 anni quando arriva a Parigi per iscriversi alla scuola della Camera Sindacale dell'Alta Moda. Abituato in casa fin da piccolo ad avvicinarsi a stoffe e macchine da cucire, non ci ha messo molto a capire quale sarebbe stata la sua strada. E così cominciano intense giornate di studio e di disegni, di teoria e di pratica che immediatamente rivelano agli insegnanti il suo sconfinato e naturale talento. Il ragazzo che porta con sé la tradizione europea e quella magrebina insieme è miope, magrissimo e non parla con nessuno. Non lo fa per primo e nemmeno quando lo fanno gli altri si lascia andare volentieri. Non è mai superbia, ma al contrario, una timidezza che è al limite del patologico. Sono sempre stato molto solitario. Ho sempre sentito l'esigenza di stare da solo, soprattutto dopo essere stato a contatto con gli altri per un po'. Mi succedeva anche con le sfilate, quando tutti erano lì per me. Io stavo bene per un po', e poi, finita la serata, avevo bisogno di chiudermi in me stesso, nella mia tristezza, e di non vedere nessuno. In questo momento, il re della moda in Francia e nel mondo è Christian Dior. È sulla cresta dell'onda dagli anni 40, da quando cioè era riuscito a rivoluzionare la storia del costume approfittando di un temporaneo allontanamento dalle scene di Coco Chanel. Quella di Dior è una donna nuova e diversa. Ha spalle arrotondate rispetto a quelle imbottite che si usavano prima, la gonna lunga a forma di corolla a 20 cm dal suolo, la celebre guêpière e la vita di Vespa ottenuta con un leggero bustino. Dopo anni di perplessità, le gonne si sono decise al gran salto, accorciandosi fin quasi al ginocchio. Questa è la famosa bomba Dior. Senza dubbio c'è una scoperta. Nei vestiti l'esplosione è abbastanza atomica, ma queste sono le bombe che ci piacciono anche se favoriscono una guerra tutt'altro che fredda. Lavorare per Dior e seguire passo a passo i suoi insegnamenti è un sogno per chiunque. Ma lo stilista lo chiede solo a Yves, perché intravede in quel giovane con la montatura degli occhiali spessa qualcosa di più di un semplice studente. Neanche a dirlo, lui è lusingato e si mette subito all'opera nella Maison per non deludere le aspettative. Da assistente si fa notare per gusto, tenacia e spirito di osservazione. È qualcosa di più di un semplice apprendistato, perché Saint Laurent, ventenne che non si è mai sentito giovane, sembra riuscire già a spiccare il volo. Ci sono delle volte in cui il destino è costretto a fare una scelta e la tragedia per qualcuno diventa la svolta per qualcun altro. Siamo nel 1957, alla fine di ottobre, e Christian Dior ha deciso di riposarsi un po' in Italia, alle terme di Montecatini. Si fida così ciecamente di Yves da averlo lasciato da solo, dopo soltanto pochi mesi di esperienza, a gestire la Maison, con tutto il carico di responsabilità che questo comporta. Ma sa che ha la testa sulle spalle, può rilassarsi in vacanza con gli amici, tra un bagno nelle piscine riscaldate e una partita a carte. Finché succede l'imponderabile. un infarto all'età di 52 anni che apre il vuoto nel cuore di chi gli vuole bene e contemporaneamente gli interrogativi sul futuro della moda. Christian Dior è un monumento, in patria e fuori, e mentre i funerali lo celebrano in pompa magna, le riviste si pongono questioni tipo: cosa succederà adesso? Cosa ne sarà della haute couture? Parigi riuscirà a restare ancora Parigi? E Yves si trova catapultato in un nuovo futuro. Sono stato travolto dagli eventi. Prima ancora che me lo dicessero direttamente, tutti dicevano che io avrei preso il posto di Dior. Sapevo che ero il suo preferito, ma avevo solo 21 anni. Non avrei mai immaginato di fare passi così veloci. Il quotidiano Le Monde scrive per commemorarlo che Christian Dior si identifica con buon gusto, arte di vivere e raffinata cultura che hanno fatto esplodere Parigi agli occhi del mondo. Il suo socio, Marcel Boussac, ha mandato il suo aereo privato a Montecatini per recuperare il corpo che adesso stanno aspettando commosse 2.500 persone, tra cui dive di Hollywood, aristocratici europei come la duchessa di Windsor. C'è chi dice che il primo incontro racconti già di come sarà un amore. Yves Saint Laurent e Pierre Berger, mercante d'arte, si ritrovano entrambi senza conoscersi al funerale. Tantissime persone intorno a loro vanno in scena i magnifici abiti di chi è venuto e la teatralità delle emozioni. Ancora loro non possono sapere, mentre piangono a distanza di pochi metri l'amico comune appena scomparso, che tutto questo è il presagio della loro vita insieme. Purtroppo c'è da pensare anche alla successione del grande stilista, per cui è stata convocata una conferenza stampa per annunciare la nuova struttura della Maison. Madame Zen Macaire, Madame Marguerite Carré e Mitza Bricard continueranno il loro lavoro, mentre tutte le collezioni saranno sotto la responsabilità di Yves Saint Laurent. To this lovely setting came Yves Saint Laurent, successor to Christian Dior, the youngest and one of the most famous designers in the world. Yves, anche se manca di pragmatismo, è onesto, rigoroso, disciplinato, doti senza le quali la creatività non riesce a far centro. Va in studio alla mattina presto e torna a casa la sera quando già c'è buio, perché adesso che deve proporre a nome di Dior la prima collezione disegnata interamente da lui, non c'è spazio per il minimo errore. La stampa internazionale attende col fiato sospeso, pronta a critiche feroci. E il mondo della moda si chiede se quel ventunenne di cui Dior si fidava tanto sia davvero in grado di fare il grande stilista. Tutti i dubbi vengono fugati alla prima sfilata ufficiale. Il parterre è di quelli che contano, tra clienti, acquirenti e giornalisti impazienti, penna in mano e taccuino sulle ginocchia. Qualcuno chiacchiera con il vicino, molti, inutile nasconderlo, approfittano dell'occasione per fare un po' di pubbliche relazioni, altri ancora sono semplicemente dei curiosi attenti a tutto ciò che succede a Parigi. Tra questi, seduto nelle prime file, c'è anche Pierre Berger, accompagnato dal pittore espressionista Bernard Buffet. La prima volta che ho incontrato Yves, o per meglio dire che l'ho incrociato, è stato alla sua prima collezione per Christian Dior. Non sapevo granché della moda, ma avevo capito dal calore delle ovazioni e dagli applausi che stava succedendo qualcosa e che Dior aveva trovato il suo successore. Migliaia di schizzi, decine di modelle, ritocchi su ritocchi in sartoria per arrivare a uno dei debutti più magici della storia della moda. 178 abiti interamente disegnati da Yves per una donna senza età che, come quegli abiti, non invecchia mai. Vestiti e cappotti dalla linea e dai tessuti essenziali, ma ricchi di stampe geometriche e motivi floreali, spalle minute, vita inesistente o appena accennata, gonna che si apre a campana. La collezione Trapezio è una vera e propria rivoluzione, perché accorcia le lunghezze, semplifica le decorazioni e si allontana dall'eleganza signorile e tradizionale. Non più tagli raffinati, ma rigidità per enfatizzare la forma. Non più pizzi e sete pregiate, ma praticità per tutte. Giovanili, divertenti, poco convenzionali e al limite dell'irrispettoso. Yves Saint Laurent lascia tutti senza parole. Sono molto commosso e anche molto felice, ma sono soprattutto commosso al ricordo del signor Dior. Le riviste che si occupano di moda sono molte, ma due soltanto sono le bibbie dello stile, Vogue e Harper's Bazaar. È da qui che partono le tendenze, da qui ancora di più che alle sfilate, che si decide cosa sarà in e cosa no nei mesi successivi. Destinate prevalentemente a un pubblico femminile, entrambe sono state fondate alla fine dell'Ottocento e nel corso dei decenni si sono combattute il mercato a colpi di ingaggi di grandi firme. Fotografi e super top, autori e grafici, per tutti lavorare con Vogue e Harper's Bazaar è un punto d'arrivo. Marie-Louise Busquet, naso aquilino, capelli corti e sigaretta sempre in bocca, è l'editor dell'edizione francese di Harper's Bazaar. Sotto il suo giudizio sono passati tutti, ed è conosciuta per la sua intelligenza raffinata unita a un'incredibile capacità di comprendere a fondo le persone. È per via di questo sesto senso, se già dalla serata di debutto di Saint Laurent, intuisce che tra lui e Berger potrebbe nascere qualcosa di profondo. Così fa quello che farebbe qualsiasi amico comune. Organizza una cena per farli conoscere. Ristorante alla Cloche d'Or, vicino a Place Blanche. La collina di Montmartre guarda dall'alto, il quartiere più vivo delle notti parigine, dove sorgono il Moulin Rouge, gli storici cabaret e decine di altri locali. Molti passano qui, dopo essere stati all'opera, per questo la Cloche d'Or è aperto fino alle 4 di mattina. L'atmosfera è bohémien, non particolarmente chic, ideale per chiacchierare con gli amici, come i 5 che questa sera si sono dati appuntamento alle 21 davanti all'entrata. Marie-Louise Busquet, Raymond Zanacker di Dior, Pierre Berger con il pittore Bernard Buffet e naturalmente Yves Saint Laurent. Se la Busquet aveva visto giusto, di certo non poteva prevedere che quella serata, come tante, avrebbe cambiato per sempre il destino dei due uomini. Unforgettable. That's what you are. Unforgettable. Though near or far, like a song of love that clings to me, destini incrociati. A Destini Incrociati siamo nel 1958 e Marie-Louise Busquet, editor dell'edizione francese di Harper's Bazaar, ha organizzato una cena al ristorante alla Cloche d'Or per far incontrare Pierre Berger e Yves Saint Laurent. Il primo è un appassionato d'arte di 27 anni, colto e gentile. Il secondo, stilista di 21 anni, ha appena sostituito Christian Dior nella sua maison. La collezione di debutto, chiamata Trapezio, per la forma geometrica dei 178 abiti che ne fanno parte, è stata un successo. Ma questo non gli ha tolto la malinconia con cui convive fin da quando è nato. Fa fatica a lasciarsi andare con chiunque, ed è il primo a stupirsi a tavola quando invece con Pierre la sua timidezza sembra svanire. Poco alla volta gli chiede della sua vita. Vuole sapere tutto di lui. Di fronte a Rochefort, costa atlantica, c'è la seconda isola francese più grande dopo la Corsica, l'Île d'Oléron. Natura ricca e incontaminata, magnifiche spiagge, cultura della buona tavola e bel clima tutto l'anno. Pierre Berger, dopo esserci nato nel novembre del 1930, è felice di trascorrere qui gli anni della sua infanzia. Sono sempre stato pacifico, equilibrato e sereno e anche molto riflessivo. Ho sempre letto moltissimo, libri, quotidiani e riviste che trovavo in casa. Mia madre mi ha insegnato a leggere presto e da quel momento non ho mai smesso di farlo. In casa Berger la musica non manca mai. Sua madre è un soprano e suo padre, un esattore delle tasse, le chiede spesso di cantare per loro. Essere educato con il metodo Montessori significa essere considerato un individuo completo e libero di assecondare qualsiasi forma di creatività della quale si è stati dotati dalla natura. La mamma cerca con le sue regole di aprire Pierre all'amore che molti adulti finiscono per comprimere. Vuol far sì che diventi una persona sensibile ma forte, docile e allo stesso tempo sicura di sé. Soprattutto gli insegna che la disciplina e l'ordine sono essenziali per la creatività, perché non le tarpano le ali, ma le danno il sostegno necessario per spiccare il volo. Non possiamo sapere come sarebbe andata se Pierre Berger fosse stato cresciuto in modo diverso. Ma poiché la storia non si fa con i se e con i ma, possiamo prendere atto della buona riuscita dell'intento materno e dire che se lui è diventato il centro della vita di Yves, il merito va senz'altro anche a questa educazione. Dopo aver frequentato il liceo alla Rochelle, per Berger, grande appassionato di letteratura, il sogno di trasferirsi a Parigi diventa realtà. E il 1948, a appena 18 anni e pieno di entusiasmo, comincia a girare per le vie della città senza cartina, perdendosi tra gli isolati, incontrando sorprese dietro agli angoli, facendo amicizia con proprietari di caffè e avventori abitudinari. Un giorno, mentre sta passeggiando lungo gli Champs-Élysées, si ritrova improvvisamente scaraventato a terra. Dall'elegante palazzo in cui ha sede una radio, il poeta Jacques Prévert ha tentato il suicidio ed è caduto proprio addosso a lui. A Prévert ci vorranno mesi prima di riprendersi, ma quel giovane perbene arrivato dalla provincia senza saperlo gli ha salvato la vita. In poco tempo si è sparsa la voce, è stato un episodio straordinario nella sua tragicità. Ne parlavano tutti. Parigi è sempre stata una città teatrale, di grandi emozioni, bianco o nero, senza via di mezzo, un luogo di felicità e di drammi. On ne saura jamais si c'est en plein jour ou si c'est la nuit que naquit dans l'île Saint-Louis. On ne le saura jamais. L'ange ou bien le démon qui n'a pas de nom et que l'on appelle aujourd'hui l'air de Paris. On ne le saura jamais. Peut-être est-il venu au coin d'une rue comme un enfant perdu, l'air de Paris. Où là-haut dans le ciel, passant d'un coup d'aile, est-il descendu jusqu'à nous, l'air de Paris. La vita parigina di Pierre Berger è ricca e stimolante. Sono gli anni 50, l'ambiente letterario si mescola con la mondanità della moda, con le avanguardie artistiche e musicali, e a farla da padrone è una sfrenata ricerca di libertà a tutti i costi. Sono molti gli amici che condividono con lui interessi e tempo libero, sull'onda di un'esistenza bohémienne. Il pittore Bernard Buffet, innanzitutto, che è a lui più vicino, e poi Camus, Sartre, Jean Genet e Jean Cocteau. Si capisce già che Pierre è un tipo da legami duraturi, in amore come in amicizia. A Genet e a Cocteau resterà amico per tutta la vita, tanto da diventare per il secondo il titolare del diritto morale di tutta la sua opera. Amante dell'arte e della letteratura, si mantiene lavorando in una libreria, ma non ha ancora ben chiaro che cosa farà da grande, finché nel 1958 il destino mette sulla sua strada il timidissimo Yves Saint Laurent. Quando ci siamo incontrati, abbiamo capito subito che stava succedendo qualcosa di importante. Pochi mesi dopo la cena alla Cloche d'Or, vivevamo già insieme. Decisi subito di preoccuparmi di lui personalmente, facendomi carico anche delle sue responsabilità. Lui era fragile, umorale, problematico. Volevo proteggerlo, allontanarlo dai suoi demoni, evitare a Yves qualsiasi tipo di problema, di sofferenza economica. La guerra d'Algeria è cominciata da qualche anno, precisamente dal 1954, quando le forze d'opposizione avevano fondato nella clandestinità il Comitato Rivoluzionario, denominato CRUA, poi Fronte di Liberazione Nazionale. Così era iniziata la rivolta che con ampi consensi nella popolazione araba era diventata lotta di liberazione contro la dominazione francese. La battaglia di Algeri del 1957, raccontata nell'omonimo film diretto da Gillo Pontecorvo, tra intervento della polizia e rappresaglie, fa sfociare il tutto in una guerra di massa. Siamo ormai al quarto giorno e lo sciopero continua, con l'adesione totale della popolazione araba. Molta calma però, calma, sei sordo? La città è tranquilla, nei quartieri musulmani della periferia e nella Kasbah. Ciao, che richiamo, ho da fare. Che si diceva ieri a Parigi? Niente, è uscito un altro articolo di Sartre. Mi spiegate perché i Sartre nascono tutti dall'altra parte? Allora le piace Sartre, colonnello? No, ma mi piace ancora meno come avversario. Se è vero che la maggioranza degli intellettuali francesi è tra le fila dei detrattori, l'opinione pubblica è divisa. Yves, dopo aver ottenuto il rinvio, questa volta è chiamato a partire per il servizio militare, ma ancora non ci sta. Si spaccia per malato e si fa internare presso l'ospedale Val de Grasse. Pierre lo va a trovare ogni giorno, lo sostiene, gli racconta quello che succede fuori. E un giorno tocca a lui dargli la difficile notizia. Marcel Boussac, direttore della Maison Dior, ma anche del giornale L'Aurore, di destra e pro-Algeria francese, non prende bene il comportamento di Yves e lo licenzia. Yves non fa una piega. Anzi, come succede spesso, intuisce che è il destino che gli sta offrendo una possibilità. Propone a Pierre di fondare una nuova maison, solo loro due, insieme, contro tutto e tutti. Berger mette anima e corpo nella ricerca dei finanziatori. Non ne sa molto di moda, ma desidera che Yves faccia il suo mestiere. Nessun francese è interessato, ma poi arriva un ricco americano che ha voglia di rischiare in Europa. È vero che Saint Laurent ha già realizzato qualche collezione per Dior, ma di certo il fallimento è dietro l'angolo. Tutto è nelle mani di Berger, i soldi, la gestione, l'amministrazione. Saint Laurent deve occuparsi solo di disegnare. D'altra parte è sempre stato così, nel loro rapporto, fin dal primo giorno. Ho dedicato tutta la mia esistenza a Yves, convinto del suo talento, di quello che sarebbe stato il suo destino. Sono stato accanto a lui semplicemente e orgogliosamente perché la sua gloria e la sua grandeur potessero non affievolirsi mai. Eppure le nostre vite sono state sempre separate. Yves non è mai venuto a trovarmi nel mio ufficio. Non avrebbe capito il mio lavoro, il mio impegno, la mia abnegazione. Soprattutto voleva continuare a non capire. Il 29 gennaio 1962 apre i battenti la Maison Saint Laurent, con quel logo composto da tre lettere, Y, S ed L, che ancora oggi sono sinonimo di alta moda nel mondo. Berger ha trovato dei locali nel 6° arrondissement, zona semicentrale, in una via anonima ben lontana dagli sfarzi del triangolo d'oro di Avenue Montaigne, che due ragazzi ancora agli inizi non possono certo permettersi. La prima sfilata è un'altra scommessa. I media la attendono fin dal suo annuncio e circola già la voce che se sarà un trionfo, Saint Laurent sarà incoronato come il nuovo Dior. Dans quelques minutes sera présentée la collection de Saint Laurent. Si c'est un triomphe, il sera peut-être le Dior de demain. Mentre il pubblico non smette di applaudire e la critica grida già al capolavoro, Yves lancia uno sguardo d'intesa a Pierre, che d'ora in poi starà sempre al suo fianco, dietro le quinte nel lavoro come nella vita. Destini incrociati. A Destini Incrociati siamo nel 1962 e la prima collezione della Maison Saint Laurent, grazie all'incredibile talento di Yves e alla perfetta gestione di Pierre Berger, è stata un grande successo. Se il primo, timido, taciturno e dalla tristezza patologica, si occupa di disegnare gli abiti, il secondo, pragmatico, posato e lucido, pensa a tutto il resto. Lo fa per sollevarlo dalle incombenze quotidiane, per proteggerlo dalle sue paure, dai suoi demoni, dai suoi fantasmi. Gli sta vicino nelle angosce profonde e nelle delusioni, a costo di tenerlo sotto una campana di vetro. Ed è convinto che la sofferenza non sia necessaria alla creatività. Non ho mai pensato che la sofferenza sia uno degli ingredienti fondamentali per alimentare la creatività. Ho conosciuto molti creatori che non soffrivano di depressione, di forme maniacali di autodistruzione. Sono convinto che i pittori non debbano necessariamente essere maledetti e che i poeti non debbano vivere forzatamente in mini appartamenti o mansarde. Ma Yves purtroppo è malato. Una patologia, per ammissione dello stesso Berger, esiste e come, e va di pari passo con la gloria. Yves sa manipolarla, ingigantirla o alleggerirla a seconda dello stato d'animo del momento, a seconda dei diversi periodi della sua esistenza. Arriva il periodo della droga, dell'alcol, dei tentati suicidi. Un giorno a New York monta su un davanzale e fa per lanciarsi nel vuoto. È sempre Pierre, la sua ombra, a salvarlo un attimo prima che precipiti nel vuoto, a strapparlo alla morte. Acquistano nel corso degli anni alcune case che diventano rifugi, come Dar es Salaam, la casa del serpente, e poi Dar es Saada, la casa della felicità, entrambe a Marrakesh. Scoprono questo luogo dell'anima durante un viaggio. Berger, senza dire nulla a Yves, va in quella che negli anni 70 è ancora l'unica agenzia immobiliare della città e compra un pezzo di serenità per lui. Tra le tinte accese, i giardini e gli odori del Marocco, Yves sta bene. Ne ha bisogno come dell'aria che respira. Anche se ovunque porta con sé quel brano della Recherche di Proust che gli serve per legittimare le sue nevrosi agli occhi di se stesso prima ancora che degli altri. Quel povero maniaco è intelligenza più alta che io conosca. Accettate di essere chiamata nevrotica. Voi appartenete ad una famiglia splendida e miserevole, che è il sale della terra. Tutto ciò che abbiamo di grande ci viene dai nevrotici. Sono loro e non altri che hanno creato capolavori, ma il mondo saprà quanto deve loro. e soprattutto quanto essi hanno sofferto per produrlo. Noi gustiamo musiche delicate, bei quadri e mille squisitezze, ma non sappiamo quanto esse sono costate ai creatori di insonnie, di pianti, di risa spasmodiche, orticarie, asme, epilessia e quel terrore della morte che è la cosa peggiore di tutte, che forse voi conoscete, signora. Supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare, e guarirai da tutte le malattie, perché sei un essere speciale ed io avrò cura di te. L'amore incondizionato di un uomo e la complicità con le donne sono le cose grazie a cui Yves sopravvive. Se Coco Chanel ha liberato la donna, ha detto Berger, Yves Saint Laurent le ha dato il potere. È il 1968 e proprio da Parigi stanno partendo i movimenti che invaderanno il mondo. Pierre Berger e Yves Saint Laurent sono in teatro, all'Odeon, quando si sentono dei colpi alla porta e la sala è invasa dagli studenti. Il giorno stesso partono per il Marocco e al ritorno Yves disegna una collezione provocatoria al grido di «La haute couture è morta». La sua rivoluzione l'aveva cominciata 2 anni prima, quando, primo stilista al mondo, aveva capito che la moda doveva essere democratica e aveva inventato il prêt-à-porter. D'altra parte, Saint Laurent è sempre stato passi avanti. Per esempio, intuendo in tempi non sospetti che molti capi del guardaroba maschile si sarebbero potuti trasferire in quello femminile. Blazer, sahariana, smoking, trench, giubbotto di pelle, tailleur, pantaloni. Tutto questo oggi sembra scontato, ma si deve a lui che ha capito come la moda non debba mai essere distante dalla realtà. Senza trascurare l'arte, attraverso omaggi estrosi ai maestri della pittura del Novecento, da Picasso a Andy Warhol, da Matisse a Braque, da Mondrian a David Hockney. Mescolare è la parola chiave, non soltanto alto e basso, ma anche le tradizioni etniche. Le sue collezioni vengono arricchite anno dopo anno da suggestioni provenienti dall'Africa, dalla Spagna, dall'India, dalla Russia e naturalmente dal suo amatissimo Marocco. Non dobbiamo mai confondere l'eleganza con l'essere snob. Un ottimo modello può proporsi alla moda anche per 10 anni. Più di 40 anni dedicati agli abiti, finché c'è la passione. Quando sente che il suo mondo sta diventando puro business, nel 2002, dà l'addio all'alta moda con la 200ª sfilata della sua carriera. Una serata da 1001 notte al Centre Pompidou. 2000 ospiti, 100 modelle, 1 ora e mezzo di défilé con tutti i suoi vestiti entrati nella storia. Molti sono indossati dalle super top che vogliono rendergli omaggio. Claudia Schiffer con la giacca safari del 1966 e un abito del 1968. Naomi Campbell in cappotto di pelliccia verde smeraldo degli anni 40. Carla Bruni con una mise del 1971. Alla fine, sulle note di Ma plus belle histoire d'amour c'est vu, che la sua amica e musa Catherine Deneuve sta cantando, lui si affaccia timido sulla passerella e si commuove sotto lo scrosciare degli applausi. Non sono capace di parlare bene come il signor Berger, ma posso dirvi quello che sento. Voglio ringraziarvi per essere venuti stasera per questa ultima sfilata. La mia è stata una vita d'amore, in una maison costruita sull'amore. E io credo di aver espresso con il mio lavoro l'amore di una donna. Tradimenti e passioni segrete, paure e riconciliazioni, sbalzi d'umore ed allegria. La vita di Pierre Berger e Yves Saint Laurent, che il regista Pierre Toretton ha cercato di raccontare con il suo L'amour fu, è stata proprio amore, costruzione di un impero, sfrenato collezionismo e molto di più. Ci sono incontri inevitabili, scritti nel destino. Yves muore nel 2008 e Pierre, per consolarsi, gli scrive lunghe lettere. Quando arriverà la sua ora, lo raggiungerà in Marocco, il luogo in cui sono stati davvero felici. Come eri giovane e bello quel giorno a Parigi, quando ci siamo conosciuti. Quel giorno tu hai incontrato la gloria e da allora tu e lei non vi siete più lasciati. Come avrei potuto immaginare che 50 anni dopo saremmo stati qui uno di fronte all'altro per rivolgerti il mio ultimo saluto. È l'ultima volta che ti parlo, l'ultima volta che posso farlo. Presto le tue ceneri verranno sparse nei giardini di Marrakech. È a te che mi rivolgo, a te che non mi senti, a te che non mi rispondi. Tutti gli altri mi sentono. Solo tu non puoi. Je refaisais mes bagages et poursuivais mon mirage. Ma plus belle histoire d'amour, c'est vous. Sur la longue route qui menait vers vous. Sur la longue route, j'allais le cœur fou. Le vent de décembre me gelait au cou. Qu'importe décembre, si c'était pour vous. Destini incrociati. Destini incrociati. Adattamento radiofonico di Giorgio Bacco. La redazione vi aspetta su destiniincrociati.it. Ora Destini incrociati è anche un libro. Questi destini si incroceranno di nuovo questa sera alle 23, qui su Radio 24.